100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Sebastiano Barisoni. La domanda che più frequentemente ci sentiamo porre in questi giorni e in queste ore, dopo l'avvio del programma di Mario Draghi di acquisto di titoli di Stato, è sostanzialmente questa: ma a noi che cosa ne viene in tasca? È una domanda più che legittima in un cittadino italiano che ha assistito in questi anni a operazioni da parte della Banca Centrale Europea che sono sembrate avvantaggiare soprattutto i gruppi bancari europei, molto meno i cittadini dell'area euro. In realtà i vantaggi ci sono, è la loro portata e efficacia che è ancora tutta da valutare. I mutui verranno erogati a tassi più bassi, sarà sempre meno ed è sempre meno conveniente per le banche e i fondi di investimento comprare titoli di Stato, il cui rendimento resterà su valori molto bassi e conseguentemente saranno spinte ad indirizzare i loro investimenti verso crediti alle imprese e alle famiglie. Infine, ma non perché sia secondario, diventa molto ma molto più difficile speculare contro l'euro, come l'effetto della questione greca sta già dimostrando. Immaginiamoci cosa sarebbe successo nel 2012 se si fosse arrivati a un patto della rottura tra Bruxelles e Atene. Assieme ad alcuni benefici esistono però anche alcuni rischi. Il primo, quello di creare una bolla, ossia un eccesso di liquidità nell'area euro, e il secondo, che stiamo ragionando di possibilità offerte a banche e fondi di investimento, non certo l'obbligo di prestare i soldi. E nessuna banca presta i soldi se non ritiene conveniente un piano industriale, nessun imprenditore fa un debito con una banca se non ritiene la situazione in miglioramento e se non ha un piano di sviluppo. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Salvatore Padula. Abbiamo detto spesso, presentando i dati sull'andamento dell'economia, soprattutto della nostra economia, come i segnali di ottimismo che qua e là si vedono debbano essere presi con cautela e anche con molto realismo. Così appunto, dopo qualche germoglio di ripresa, arriva oggi puntuale una nuova gelata. Il dato del quale stiamo parlando riguarda la produzione industriale, vale a dire l'indice con cui l'Istat misura il volume fisico della produzione effettuata dall'industria in senso stretto. A gennaio la produzione industriale è tornata a calare, sia rispetto a dicembre sia rispetto al gennaio del 2014. È una battuta d'arresto che un po' preoccupa, perché le ultime rilevazioni avevano invece fatto segnare un piccolo risveglio. Qualcuno ritiene che il dato negativo di gennaio sia principalmente dovuto al particolare calendario del 2015, alla possibilità che qualche azienda abbia preferito fare un ponte festivo un po' più lungo, perdendo un giorno in più di produzione. Secondo altri osservatori, però, questa ipotesi da sola non può giustificare un calo delle proporzioni registrate dall'Istat. Tra l'altro, queste proporzioni sarebbero state ancor più pesanti se a gennaio non si fosse consolidata la ripresa della produzione di auto. La speranza comunque è che questi dati, che non sono incoraggianti, siano solo una parentesi. Tutti ora guardiamo a febbraio. Nei giorni scorsi il centro studi di Confindustria ha previsto che la produzione dell'industria nazionale avrebbe appunto a febbraio fatto segnare un aumento di oltre un punto percentuale. Vedremo cosa accadrà. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.